446. Tortino di patate prima maniera. Questo piatto, come quello del numero 443, può servire per tramesso o solo o in compagnia di cotechini o zamponi. Patate belle, grosse, farinacee, grammi 500. Burro, grammi 50. Latte buono, panna mezzo bicchiere. Parmigiano grattato, 2 cucchiaiate, uova numero 2, sale quanto basta. Eseguita che avrete la stessa fattura del numero 443, lasciatele ghiacciare ed aggiungete il parmigiano e le uova. Prendete un piatto di rame da pasticcio o una teglia proporzionata. Ungetela col burro, spolverizzatela di pan grattato fine e versatevi il composto dopo averlo ben mescolato. Dategli la forma di una schiacciata alta un dito o un dito e mezzo e ponetelo sotto il forno da campagna per rosolarlo. Servitelo caldo dalla parte sottostante o superiore dove è più appariscente. Invece di un tortino grande, potete farne molti dei piccoli o anche, per dar loro una forma elegante, porre il composto negli stampini.